A Milano non crescono fiori, in quei prati che prati non sono, sono finti e non hanno profumo, sotto un cielo che cielo non è. Ma dove vanno gli innamorati per dirsi quello che voglio dire a te? Devi venire nel mio paese, dove c'è il sole che brillerà per te. L'altra sera volevo baciarti, non ho potuto farlo perché, perché ci presero nome e cognome in un prato che prato non è. Quello che voglio dire a te.